vecchia professora e concertina, New York non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, mandolina, imparavisa e tenna a suonare. Tu, San Piera Pita, va volim divertì, si te Napoli, trasita e facita ce sentì. Ma vimma fa sentito io tre canzone, ca tutto paravisa da canta, sospirva sa musica passiona, roba che sulla Napoli si fa. E a sera in paravisa si cantaia e tutti i santi iettano a sentì. Un repertorio non forneva mai Carmela o Sole Mio, Maria Maria. A San Pie che sti canzone sulla Napoli può fa, ha rapito stu balcone, ha sentito sta città. E sotto sole a luna voi sentite sti voce che so voce gioventù, si può scendere da là non ho credito, voi imparavi son ci tornate chiù. Ma roppo poco rama l'ingonia e vecchie se sentette ripiglia. Soffrevano un po' che nostalgia e a Napoli volettero tornare. Mo San Pie si permettite, ne va vimma salutare. Siete pazza, che dicite, non volete restare. Noi siamo in un paese bello e caro, che tutto tene e non si fa lassa, posilla che sorriente e mare chiara, o paravisa nostra e chi lullare.